ti va puoi restare, però se piove ti prego accompagnami al mare, perché mi dà fastidio se c'è grigio da giorni ricordare che dall'altra parte del mondo qualcuno guarda il sole. L'amore si fa, non lo si impone, se ti va me lo insegni, però se ho voglia di uscire lasciami fare, perché mi dà fastidio non muovere un passo e ricordare che dall'altra parte del mondo c'è chi toglie i tacchi per ballare. Ora che il vento ci spettina il cuore, dimmi cos'altro ti sembra davvero importante. Ora che cambio la giacca e la destinazione, ragazza color autunno non sarò più. Tornerà la voglia di correre, vestiti così potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai tu, torneranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa se ci sei tu. Ridi, ridi come ridi tu, se rimani va bene, però l'abitudine lasciala fuori, perché mi dà fastidio vedere nulla di nuovo. Si parla sempre di amore per poi non farlo veramente. Ora che il mare riordina il cuore, dimmi cos'altro ti sembra davvero importante. Ora che cambio la pelle e la destinazione, ragazza color autunno non sarò più. Protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai tu, cambieranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa. Tornerà questa voglia di correre, se mi guardi così potremmo essere la prima fila dell'ultimo film. Tornerò io, tornerai tu, torneranno settembre, le spiagge deserte, ma io sarò la stessa. Ci sei tu, prenoterò il tuo buon umore e una camera con vista. Sei tu.